L'immaginazione serve a mantenere le cose vive quando sono calme, stanche e morte. L'immaginazione è quello che serve per rimanere interessati e coinvolti nel mondo. Ma l'immaginazione, diciamo, disturba o distrugge qualcosa. È per questo che l'ho detto. But the imagination always, let's say, disturbs or breaks up something. That's why I said that. E questo era Nif Qureshi che ci ha parlato del romanzo 1-0 pubblicato in Italia da Bompiani. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta Il cacciatore di libri. Yeah! Romanzi che non solo per la trama, ma anche e soprattutto per il modo in cui vengono narrati e per la lingua che usano, portano il lettore veramente in un mondo parallelo, in un altro contesto, lo fanno immergere in un'altra realtà. Quando ho iniziato a leggere questo romanzo ho avuto la necessità di isolarmi dal mondo, perché veramente andavo in un altro contesto. Il romanzo si intitola Nella perfida terra di Dio, l'ha scritto Omar Di Monopoli, pubblicato da Adelphi. Omar Di Monopoli, uno scrittore salentino, in realtà lui è nato a Bologna ma è pugliese a tutti gli effetti, e che ha deciso, nonostante appunto faccia lo scrittore, di continuare a vivere in un comune della Puglia che si chiama Manduria, provincia di Taranto, diciamo la parte del Salento meno chic, forse quella meno conosciuta. Omar, tu in questo romanzo alterni una narrazione, il prima e il dopo. Ogni capitolo appunto è alternato, racconta la storia di prima e di dopo. Partiamo dal prima. Diciamo che al centro di questo prima c'è un uomo, Mbanuzzo, sarebbe compare Nuzzo, giusto per intenderci, che è un uomo che a un certo punto della sua vita lascia Taranto con la moglie e la figlia, perché viene folgorato, diciamo, sulla via di Damasco. Ha, non dico una visione, ma quasi, e diventa un predicatore. Come ti sei immaginato questo Mbanuzzo? C'era innanzitutto la volontà di creare un romanzo che ricalcasse la forte componente di superstizione popolare che anima la mia terra, e anche il senso di profonda religiosità che talvolta, come dire, rasenta il paganesimo, no? Per cui c'era questa esigenza da parte dell'autore di inquadrare dentro un discorso di genere, perché io sono uno scrittore di genere, per cui quella della credulità popolare era uno dei temi che volevo affrontare in questo libro. Poi in realtà è una storia corale, per cui ci sono tantissimi personaggi, quindi è impossibile descriverli tutti. Abbiamo diviso un po' un prima e un dopo e i protagonisti del prima e del dopo. Sì. Poi voglio dire, ci sono numerosi personaggi, e c'è soprattutto sullo sfondo una Puglia che non è quella oleografica, quella patinata che siamo abituati a conoscere negli ultimi decenni, insomma, attraverso il buon lavoro, il legittimo lavoro degli uffici turistici, ma in qualche maniera questa è la Puglia più oscura, quella più nascosta, quella che continua a fare i conti con una serie di problemi non risolti e di contraddizioni che sono evidentemente un retaggio probabilmente addirittura della questione meridionale, cioè la cronica mancanza di lavoro, il malaffare, la corruttela, i lacerti della Sacra Corona Unita, che è una mafia sconfitta solo sulla carta, per cui una terra contraddittoria e problematica. Ecco, a questo proposito avevo proprio sottolineato un brano del tuo romanzo. Tu immagini che tutto avvenga in questo paese immaginario che hai chiamato Rocca Bardata, e a questo proposito scrivi: pur dotati di pittoreschi centri, fitti di edifici lastricati e maestose cattedrali dalle guglie barocche, paesi quali Rocca Bardata si erano nell'ultimo trentennio come spenti e prosciugati, depredati dalla criminalità e vessati dalla cronica mancanza di lavoro, luoghi siffatti, un tempo votati ad una ruralità essenziale, poi consegnati all'illusione di uno sviluppo economico che si era compiuto solo nei proclami di una classe politica sciagurata, erano di colpo sfioriti, ritornando quasi per inerzia a quell'isolamento arcano e selvaggio che caratterizzava quelle lande sin dai tempi dei Borbone. C'è molta anche analisi sociale, socio-economica nei tuoi romanzi. Perché? Questa è la straordinaria capacità dei romanzi di genere. Da tempo, come dire, i noir, i romanzi gotici, insomma, i romanzi di genere hanno questa straordinaria libertà di potersi di poter descrivere, come dire, alcuni tessuti sociali, affondando le mani nella polvere e nel fango, e al tempo stesso cercando di intrattenere il lettore. Quindi con una estrema libertà io cerco di indurre una riflessione su questa mia terra che amo e odio, come è giusto che sia, quando si parla di un amore particolarmente forte verso qualcosa, e quindi attraverso una storia che è ritmata, che è piena di eventi e che soprattutto induce ad arrivare al finale per cercare di chiudere tutti i nodi irrisolti della storia, la volontà, la pretesa forse se vogliamo, è quella anche di indurre una qualche riflessione su una terra contraddittoria, sul sud, ecco. Infatti non a caso all'inizio della nostra intervista ho detto che tu hai scelto di continuare a vivere a Manduria anche se fai lo scrittore. Non era una diminuzione naturalmente, ma uno pensa va bene, fa lo scrittore, magari si trasferisce in una grande città dove può avere più contatti eccetera, invece hai deciso consapevolmente di restare legato alla tua terra. Prima parlavi di genere, hai definito la tua una letteratura di genere. Alcuni parlano di te come il Faulkner italiano, altri... Esagerando. Beh, però per te è un grandissimo complimento. Assolutamente. Altri che parlano di un western pugliese, altri ancora che ti paragonano per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto splatter al regista Quentin Tarantino. Insomma, hai diversi punti di riferimento, ma Omar di Monopoli, come definisce il suo genere? Ma io sono molto legato, sì, oggettivamente alla scuola del Southern Gothic, no? Alla scuola del gotico meridionale, che non a caso trova nel bardo del Mississippi, in William Faulkner, il suo capostipite. Però diciamo da lui ho saccheggiato, ho omaggiato l'idea per esempio di una contea fittizia, no? Per Faulkner a Yoknapatawpha, per me è questa Puglia che non esiste, fatta di tanti paesini che io ho immaginato anche nei libri precedenti e che formano una sorta di mappatura geoletteraria, una Puglia che non esiste ma che in qualche maniera rispecchia parecchio la Puglia reale, soprattutto ribadisco la Puglia meno conosciuta, meno meno turistica, meno celebrata sicuramente, per cui appunto come sfondo dei miei romanzi ci sono i miasmi dell'Ilva, c'è la Xylella, c'è voglio dire quello con cui noi pugliesi continuiamo a fare i conti una volta che l'estate si spegne. Ecco, questo è uno dei punti che volendo potremmo segnalare come socialmente impegnato all'interno però di un romanzo che è voluto anche di intrattenimento. Ecco, questa è la capacità del genere. Devo dire che da pugliese mi piace molto questa capacità che hai, perché effettivamente la Puglia non è solo appunto il Salento e il turismo, ma è tante tante altre cose. All'inizio facevamo un minimo di coordinate GPS sul romanzo. Abbiamo detto il prima protagonista, questo un panuzzo che appunto viene rapito insomma dal misticismo, dallo spiritualismo e dalla religione. E invece il dopo si capisce già dall'incipit che Banuzzo è morto, quindi non c'è più, e i protagonisti invece sono una nuova generazione. Chi sono e come li hai voluti dipingere? Ma sono innanzitutto i nipoti di questo Banuzzo e sono due ragazzini che in cerca di padre. Il padre, come dire, utilizzando se vogliamo una figura archetipica del western, è questo Torre della Cucchiara che come uno straniero, come un Clint Eastwood della situazione, torna nel paese a regolare dei conti. La differenza è che appunto non è un pistolero, come dire, un eroe positivo, ma è un ex sgherrista della Sacra Corona Unita, per cui è anche un personaggio con cui è difficile empatizzare immediatamente, però in qualche maniera è anche quello per il quale si parteggia leggendo il romanzo, perché comunque il vettore tracciante di tutta la storia e noi assistiamo al risolversi dei nodi anche attraverso la rabbia di questa vendetta portata innanzi, per cui è, se vogliamo, sono tre generazioni che vengono raccontate nelle pagine di questo libro e sono tre generazioni di losers fondamentalmente. Ecco perché una Puglia minore è una Puglia degli ultimi e ha la pretesa di essere appunto allo specchio di un sud universale, insomma. Veniamo alla lingua, che è una delle cose caratteristiche di questo e degli altri tuoi romanzi. Quando ho iniziato a leggere Nella perfida terra di Dio, ho avuto un déjà vu. Mi sono ricordata il giorno in cui ho iniziato a leggere Salvatore Niffoi con La vedova scalza, un libro che vinse anche il premio Campiello, se non erro, 2006, però adesso vado veramente a memoria. Proprio perché fai un uso della lingua particolare, nel caso di Niffoi la lingua sarda, nel tuo caso è uno strano mix fra pugliese, in alcuni casi forse anche dello slang, mettiamola così, e altre cose. Sicuramente la lingua è molto molto curata, per questo dicevo inizialmente che c'è bisogno di immergersi nel momento in cui, ed isolarsi nel momento in cui si legge questo romanzo. Perché fai un uso della lingua così originale? Beh, è un lavoro di ricerca che porto avanti da ormai più di un decennio, e appunto è cercare di innestare il registro basso su quello alto, per cui ha descrizioni molto liriche dei paesaggi in cui si svolge la storia. Io poi utilizzo invece le onomatopee tipiche del dialetto, e appunto ho creato questa lingua che nel bene e nel male mi caratterizza, per cui se vogliamo anche questo la riproposizione di una forma quasi di quello che per Faulkner chiamavano gongorismo sudista. Ecco, questo è gongorismo in salsa orecchiette western, cioè. E questo ci piace molto, naturalmente. Se nomini le orecchiette, sai che in questo caso ti sei sfondi una porta aperta, ma secondo me anche con i nostri lettori. Quindi insomma, questa lingua, ecco, diciamolo subito, è assolutamente comprensibile da chiunque. Nel momento in cui si legge il tuo romanzo, si leggono anche gli altri tuoi romanzi, non è necessario essere pugliesi per comprendere tutto. No, assolutamente. Anche perché poi, come dire, io gioco con la costruzione sintattica del dialetto, ma in qualche maniera lo rendo accessibile, proprio perché fa da contraltare invece una lingua molto lirica, molto aulica. E ribadisco, è un doppio registro, alto e basso. Ecco, un doppio registro è anche una scrittura, per alcuni aspetti, anche cinematografica, che va per immagini, non solo perché dai le descrizioni dei luoghi. Fai queste descrizioni con una lingua particolare, quindi appunto ci si immerge in quel contesto. Io sono uno scrittore molto visivo, non sono solito descrivere per esempio i moti interiori dei miei personaggi, lascio che il lettore deduca lo stato d'animo del personaggio attraverso quello che fa, e questo, se vogliamo, è molto cinematografico, ma deriva dal fatto che io innanzitutto venga dalla grafica e dal fumetto, per cui sono abituato a rappresentare le cose in una certa maniera, e poi anche dal cinema, nel senso che sono un po' di anni che collaboro, diciamo, con il cinema, quello più underground, quello più poveretto se vogliamo, ma che in qualche maniera anche quello ti dà una connotazione rappresentativa molto forte, molto iconica, ecco. Nella perfida terra di Dio potrebbe dunque diventare un film? Si risponde sempre rimanendo sul vago. Ci sono già... No, non mi interessa sapere se ci sono degli interessi, però quando ci sono dei libri che più di altri si prestano, sì, a diventare dei film, e altri meno, è chiaro che avendo tu una scrittura molto per immagini, molto ritmata, in alcuni casi abbiamo citato prima il genere splatter di Quentin Tarantino, quindi si presta più di altri, essendo tu comunque una persona che ha fatto comunque cinema, fumetti, sì, sì, romanzi, puoi dare un giudizio super partes anche se si tratta del tuo romanzo? No, ma lo è sicuramente. Ora, a parte gli scherzi, insomma, ho già avuto attestati, come dire, di riconoscimento da parte di registi potenzialmente interessati, e comunque i miei amici del mondo del cinema che mi hanno detto che, come gli altri romanzi, è una sceneggiatura in fiere, insomma, in qualche maniera. Quindi è già pronto. È già pronto. Ultima domanda, visto che parliamo di immagini, copertina. Confessa, l'hai scelta tu o la casa editrice? Molto bella, tra l'altro, lo so, le copertine alla radio non si vedono, quindi dovete andare su internet, digitare Nella perfida terra di Dio, Omar di Monopoli, immagini, e vedete la copertina. L'abbiamo scelta insieme, è stato un processo elaborato, sì, complicato anche, perché dovevamo trovare un'immagine che fosse al tempo stesso evocativa, noir, e non immediatamente riconducibile alla terra di cui si parla nel libro, perché la volontà appunto è di rendere questo lavoro universale, per cui l'immagine in copertina è una landa desolata, solcata da dalle impronte di alcuni pneumatici che potrebbero essere tranquillamente quelli di un pick-up dell'Alabama, così come quelli di un pick-up della Puglia più estrema. Insomma, Puglia come l'Alabama. Assolutamente. O l'Alabama come la Puglia. Grazie a Omar Di Monopoli. Grazie, ora in libreria con Nella perfida terra di Dio, pubblicato da Adelphi. Ve l'ho detto, questo è un romanzo che, insomma, secondo me bisogna prendersi lo spazio, il tempo, il contesto per leggerlo, perché vi fa veramente immergere in un altro mondo. Prima di chiudere vi segnalo la manifestazione Una montagna di libri, che organizza incontri con gli autori per tutta l'estate a Cortina d'Ampezzo. Alcuni nomi: ci sarà la giallista svedese Camilla Läckberg domenica 27 agosto, Carlos Ruiz Zafón, famoso per L'ombra del vento, il 15 settembre, una strana coppia, Mattia Feltri e Francesco Piccolo, il 10 agosto, poi ci sarà Antonio Monda, Mauro Kovacic, finalista al premio Campiello 2017, e altri giornalisti come Vittorio Feltri e Paolo Mieli. I dettagli del programma su unamontagnadilibri.it. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che in questo periodo estivo gli appuntamenti con Il Cacciatore di Libri si moltiplicano, il sabato come sempre alle 6.30 e alle 22, ma anche la domenica alle 16.15 e alle 20.45. Trovate comunque tutti i podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.